America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Donald Trump officially nominating ExxonMobil CEO Rex Tillerson Tuesday. Press release sent out early Tuesday morning saying as Secretary of State... Rex Tillerson, ve l'ho detto ieri, nuovo segretario di Stato nominato da Donald Trump, ovviamente dovrà passare il vaglio del Senato, ma questa nomina apre un nuovo corso perché finora grandi executive potevano andare al Pentagono, che è una grande azienda anche di politica industriale, ma nessuno immaginava che potesse esserci un executive petrolifero alla guida della diplomazia, della superpotenza, un fatto questo che ha fatto storcere molti nasi, alzare molti occhi al cielo, ma la scelta secondo me alla fine è forse la migliore fra i candidati che facevano parte della rosa ristretta, Rudy Giuliani, lo ricorderete, ma anche Mitt Romney. Perché? Ma perché, insomma, Tillerson è abituato a negoziare contratti difficili, spesso con importanti implicazioni politiche ai massimi livelli governativi, conosce i leader, negozia direttamente con loro e sappiamo quanto il rapporto personale in questi casi sia importante. Tillerson conosce a fondo il Medio Oriente, Putin, la Russia e il recupero della Russia, magari, attenzione perché questo è importante, magari già il G8 di Taormina, il G8 italiano del prossimo giugno, come il processo di pace in Medio Oriente, sono due obiettivi chiave enunciati da Trump. Rischi? Rischi per Tillerson ce ne sono. Intanto il Dipartimento di Stato non è la Exxon, dove i funzionari scattano all'ordine. Forse Tillerson si accorgerà che la missione più dura sarà quella di trascinare sotto la sua leadership proprio il Dipartimento di Stato e i suoi funzionari, tessere chiave per ricomporre un mosaico internazionale che negli anni dell'amministrazione Obama si è molto frammentato. Ma ieri c'è stata anche un'altra nomina. Trump ha scelto l'ex governatore del Texas, Rick Perry, come prossimo segretario dell'energia. L'annuncio ancora non è arrivato, dovrebbe arrivare a breve. Perry, diciamo, non fece una gran bella figura in un dibattito presidenziale del 2012, quando correva per la nomination repubblicana. Ecco, elenca a un certo punto tre dipartimenti che vuole abolire, però poi non si ricorda il terzo. Sentiamo. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. EPA? EPA, there you go. No, again. Ecco, avete sentito. Chi lo aiuta è Ron Paul, padre di Rand Paul, Rand che correva come candidato quest'anno per il Partito Repubblicano. E il moderatore però poi a un certo punto insiste, dice: ma è sicuro che, come le dice Ron Paul, il terzo dipartimento che vuole abolire è quello dell'ambiente? E a quel punto Perry è recidivo, non si ricorda, dice che non è l'ambiente, è un altro, ma qual è? Ups. Beh, sentiamo. Is EPA the one you were talking about? No sir, we were talking about the third one I can't, sorry. Oops. Ecco, avete sentito, un po' un teatrino, se lo dimentica di nuovo, eppure era il Ministero per l'Energia, proprio quello per cui Trump lo vuole con sé nell'amministrazione. Dunque c'era un aspetto molto ironico in questa situazione. Perry, tra l'altro, come vi dicevo, una bravissima persona, è il secondo texano al governo dopo Tillerson. Vedremo dunque come si comporterà. Parlando di energia, ieri a New York ho visto l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, ha incontrato una trentina di analisti che rappresentano tra l'altro il 2,5% del capitale del gruppo. L'ho visto Descalzi molto più ottimista di alcuni mesi fa, con alcune notizie per l'anno prossimo, 2017. L'ENI raggiungerà la produzione di 1.840.000 barili di petrolio al giorno. Parliamo del massimo storico per il gruppo petrolifero italiano. Sentiamo altre novità che ci ha dato sul piano finanziario e su quello dell'efficienza del gruppo. Io spero proprio che sarà da record. Chiaro, dipende dal prezzo. Penso che in questi tre anni, mostrando la cash neutrality che è passata da $127 barile a $50 barile, produzione che è salita del 15%, quindi più di 250.000 barili, riducendo del 30% gli investimenti, abbiamo preparato una struttura di business che ha tutte le caratteristiche per riuscire a catturare gli upside in termini di prezzo, ovviamente. Ecco, a questo quadro aggiungiamo la chiusura di un lungo capitolo oscuro per l'OPEC, che non riusciva a trovare l'accordo per contenere la produzione e spingere il prezzo al rialzo. Ora l'accordo c'è stato, ma si è anche riusciti ad estenderlo alla Russia, cioè ai paesi non parte del cartello. Descalzi ha anche chiarito che immaginare dietrologie geopolitiche, come qualcuno diceva sui giornali ieri sull'operazione con la russa Rosneft, ricordiamo l'ha acquistato il 30% di giacimenti di gas scoperti dall'ENI in Egitto l'anno scorso, ecco, è sbagliato. Perché? Ma perché la Russia, Rosneft, non ha questi interessi, non ne ha bisogno, e dunque perché prende questa decisione? La spiegazione ce la dà un analista: per avere un maggior controllo sui prezzi del gas. Sul piano strategico la ragione dunque non è per estendere la sua influenza dalla Siria all'Egitto, ma soprattutto ha ragioni e radici economiche e non politiche. Qualcuno dice che in Italia il vero ministro degli esteri è proprio l'amministratore delegato dell'ENI, proprio per questi suoi rapporti, come vedevamo prima con Tillerson, con leader mondiali. E dunque, non potevo non chiedere a De Scalzi un commento sulla nomina del suo collega Tillerson alla segreteria di Stato. E gli chiedo intanto se lo conosce bene. Lo conosco molto bene, sì, perché abbiamo rapporti ovunque, sia in Nigeria, in Kazakistan. È una persona conosciutissima nel nostro ambiente, è una persona che personalmente conosco bene. Tipo è simpatico, brillante, riflessivo, grande negoziatore. È una persona riflessiva, di grande esperienza, grande negoziatore, ha un profilo che va benissimo per parlare, di trattare di geopolitica, conosce tutti i presidenti, conosce tutte le autorità del mondo, è una persona che sicuramente dà valore, come ha trovato soluzioni per la sua società, che è la prima al mondo, sicuramente può trovare soluzioni anche per il suo paese. E con la Russia, un rapporto buono con la Russia, ci sono dei problemi con la Russia, sanzioni, sarebbe meglio ovviamente, penso che questo lo credano tutti in Europa e negli Stati Uniti, allentare la tensione con la Russia. Lei crede che forse sia la persona che ha migliori probabilità di farlo e che ci riuscirà? È chiaro che ci deve essere una politica di dialogo. Tillerson sicuramente è una persona che può implementare questa politica perché l'ha sempre fatto, quindi è esercitato a dialogare, perché se noi nel nostro mestiere non dialoghiamo non entriamo, e se non negoziamo non chiudiamo i contratti, e se non continuiamo a negoziare perdiamo soldi. Quindi la nostra vita è un negoziato continuo, un'attesa, una verifica, un'iterazione. Rex Tillerson ha ottimi rapporti con la Russia, ma ottimi rapporti con tutti. Adesso si parla della Russia, ma si può parlare di qualsiasi altro paese. Io penso che sia una persona, per gli skill che ha, che può veramente portare delle soluzioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americaprivato.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che abbiamo parlato di energia, di executive della Exxon che arrivano al Dipartimento di Stato, di De Scalzi dell'Enel, non potevo che dare la canzone a Jerry Reed, The Crude Oil Blue. Well, now listen people, let me tell you some news. I sing a song called The Crude Oil Blues. We're low on heat and on, we're low on gas. And I'm so cold, I'm about to freeze by myself. We got the crude oil blue. Lord, the winter time so getting cold to the bottom of my shoe. Well, my hands are shaking and my knees are weak. But it ain't because of love, it's from the lack of heat. I got the crude oil blue. I'm gonna tell you a story about this drunk I knew. He kept his basement full of homemade brew. But the winter got so bad, it screwed up the boy's thinking. He got so cold, he had to burn all his drinking. He's got the crude oil blue. He said the winter time can show get cold to the bottom of his shoes. He said burning this booze just destroyed my soul. But there's one thing about it, honey, when you're cold, you're cold. I got the crude oil blue. All back up, son, let me generate a little heat. All right. All juke it, son. Record, there was a little bit of doubt whether or not the thing was ever gonna come out. I said, hey, chief, you reckon this record will be released? He said, son, we ain't got enough oil to keep the presses greased. We got the crude oil blues. And son, if we can't make a record, then we don't need you. I said, well, what am I gonna do if I can't sing and pick? He said, well, just keep yourself warm playing on them hot licks. We got the crude oil blues. Don't forget to bring in the brass monkey. And remember what Albert Einstein said. That cool